in primo piano. Anche se le aperture sono diversificate, perché da ieri è anche legge il legittimo impedimento. Il legittimo impedimento è legge, infatti è l'apertura del Corriere, invece Repubblica sulle liste, Berlusconi accusa i giudici, anche la stampa, Berlusconi accusa giudici e partito radicale. Per il Messaggero il legittimo impedimento è legge. Poi c'è chi mette come il fatto la piazzata. La piazzata, c'è la foto di La Russa che ferma questo contestatore nella conferenza stampa di Berlusconi. Per Libero, Silvio spara ai ladri di voti. L'Unità, balle spaziali, c'è Berlusconi a bordo di un panino stilizzato, ovviamente un disegno, il famoso panino di Milioni, quello che si è allontanato per il panino. Per Il Riformista è tornato il Caimano. Il clima è questo, si legge dai titoli. Il Sole 24 Ore fa un'apertura sulla produzione, ok, male il PIL, e poi Sacconi sulla CIG. C'è un'intervista al ministro del welfare Sacconi, che poi vedremo. Ma come detto, ieri Berlusconi ha fatto questa conferenza stampa, sicuramente molto movimentata, ha annunciato il ricorso alla piazza, ha detto è colpa dei radicali, è colpa dei giudici. Partirei dal Sole 24 Ore, prima pagina, il commento di Stefano Folli. Il buonsenso si è smarrito nel labirinto buio delle risse. Siamo piombati nel pieno della campagna elettorale, scrive Folli. Si intende nel modo peggiore possibile. L'idea che nelle prossime settimane il confronto politico si svolga con tutta l'asprezza possibile interno al ridicolo pasticcio delle liste e alle sue conseguenze è piuttosto scorante. Si dirà che l'opposizione non ha dimostrato fair play, ma non si può negare che susciti qualche perplessità l'immagine di un presidente del Consiglio che scende in campo in prima persona contro i magistrati e l'ufficio elettorale di Roma per rivendicare un diritto compromesso non da oscuri complotti ma da errori unilaterali negati ed evidenti inadempienze. Si era detto nei giorni scorsi che il pasticcio andava risolto facendo ricorso al buonsenso. E invece, insomma, per il momento, scrive Folli, bisogna dire che lo spettacolo complessivo non è stato edificante. Dalla classe politica ci si aspetta qualcosa di più e di meglio. E invece che è successo? Per esempio, ieri, conferenza stampa, a un certo punto della conferenza stampa si alza uno, tale Nicola Carlomagno, tra l'altro per il secondo giorno consecutivo devo leggere La Iena, Riccardo Barenghi, a pagina 3 della stampa, è riuscito a litigare perfino con Carlo Magno, perché Carlo Magno è il cognome di questo provocatore, chiamiamolo così, sedicente giornalista, almeno dai resoconti dei giornali oggi definito così, un provocatore. A un certo punto ha iniziato ad alzarsi, ad accusare Berlusconi, a fare domande molto insistite. È un periodo che va così, scrive Mattia Feltri su La Stampa. Mancava solo Carlo Magno. Effettivamente si potrebbe dire nome, insomma, in questo caso. Che succede? A un certo punto della conferenza stampa, scrive Mattia Feltri sulla stampa, un piccoletto tutto pepe che non si era annunciato né prenotato ha fatto sentire la sua voce vibrante di indignazione. Con l'indice puntato voleva sapere dal Premier la vera natura dei suoi rapporti col Quirinale, voleva approfondire qualche altra questioncina sulla tenuta del sistema occidentale. Berlusconi non si è sottratto alla sfida col piccoletto, ha iniziato vergogna, no vergogna tu, e quando il Premier è al momento di chiuderla un paio di uomini della sicurezza arrivano, è arrivato Ignazio La Russa, ce penso io. Il piccoletto si era qualificato come freelance, si chiama Rocco Carlo Magno ed è uno che in giro si vede una decina di volte da Marco Pannella. Lo interruppe finché Pannella disse togliete il microfono a questo rompicoglioni. Poi era accreditato come attivista del PD. Al Manifesto ricordano quando arrivava in redazione senza avere titoli, raccattava qualche giornale, si infilava in qualche stanza e cercava di accreditarsi alle conferenze stampa della Camera come cronista del Manifesto. Insomma, e poi è finita con lui, La Russa, che l'ha un po' allontanato bruscamente. Fascista, picchiatore fascista, maledetto fascista, questo Carlo Magno alla Russa. Per il fatto è il disturbatore che vuol fare il giornalista, lo conosciamo un po' tutti nell'ambiente, è nato a Bari 38 anni fa, quando si presenta sono al giornalista, si spaccia come assistente di un politico, al politico dice di essere un collaboratore di un giornale, peccato che il controllo incrociando non dia mai riscontri positivi. Insomma, questo è successo ieri. per Concita De Gregorio sull'Unità è stata una pagina buia, addirittura il direttore dell'Unità scrive al campionato mondiale di balle spaziali del sedicente statista di Arcole, ieri cosa è successo? La conferenza stampa in cui un ministro della difesa aggrediva fisicamente un giornalista, che poi non è un giornalista. Provate solo per un istante a immaginare la stessa scena alla Casa Bianca o all'Eliseo, scrive Concita De Gregorio. Non può succedere in alcun luogo dell'orbe terraqueo, con l'eccezione forse di alcuni subequatoriali a sistema di governo tribale. Insomma, il clima è questo, anche una conferenza stampa finisce così. E ora c'è la piazza invocata da Berlusconi e la piazza di sabato 20 marzo, mentre la piazza di sabato questo dell'opposizione. I sospetti del segretario su Tonino, leggo da Repubblica, il segretario è Bersani, non vuole dare nessuna garanzia. Che cosa succederà sabato in piazza? Il PD non vuole sostanzialmente che si critichi troppo Napolitano, anzi che lo si critichi per niente, mentre Di Pietro è quello che dice vogliamo l'impeachment addirittura del capo dello Stato che ha firmato questo decreto giudicato incostituzionale, il decreto salvaliste. Spero che tutto fili liscio, che partiti e associazioni restino nei confini della piattaforma che abbiamo preparato, ma Pierluigi Bersani non ha chiesto e non ha avuto garanzie da Antonio Di Pietro, scrive Repubblica. Dunque c'è questo timore di quello che potrà succedere, tanto che in prima pagina del giornale, con Giordano Bruno Guerri in un editoriale dice sinistra spiazzata. Si chiede Bruno Guerri, sentite qui, Berlusconi arma la piazza, proclamava il manifesto di ieri, dando allo stesso tempo la notizia della bella manifestazione di Piazza del Popolo che si terrà a Roma sabato prossimo. Lo stesso strabismo è apparso su Unità, Liberazione e Fatto, dove in due titoli Berlusconi minaccia e invoca la piazza. Anche oggi il Fatto ci torna così sostanzialmente, la piazzata, Berlusconi aizza la piazza stavolta. Insomma, scrive Giordano Bruno Guerri, le manifestazioni piazzaiole della sinistra sono sacrosante e benigne quanto quelle della destra odorano di zolfo, violenza e golpe. Ancora questo sul manifesto. La piazza sembra diventata la protagonista dei prossimi giorni della campagna elettorale. Oltre ovviamente ai corsi e ricorsi, ci fa sapere il Corriere della Sera a pagina 5 che dal Piemonte alla Calabria, perché voi pensate che sia tutto il casino solo in Lazio ormai ridotto, dal Piemonte alla Calabria Babele di ricorsi. In 6 regioni su 13 dove si vota saranno i giudici chiamati a decidere. Per esempio, in Piemonte pende il caso della lista Cota, che non è quella del candidato della Lega, ma di tale Nadia Cota, una lista presentata dal re delle liste civetta, delle liste disturbatrici, Rabellino, che abbiamo sentito anche qualche giorno fa alla Zanzara da Giuseppe Cruciani. Uno che presenta le liste Grillo, le liste dei Grillini, ma non sono quelle di Beppe Grillo, le liste Forza Toro, ma non è che tengono tutti al Torino, cioè lo fa apposta per raccimolare voti qua e là. Allora ha presentato una lista Nadia Cota, ha trovato una che si chiama Nadia Cota e l'ha chiamata lista Cota. Chiaramente Cota, il candidato della Lega, si è molto arrabbiato, no? Dice questo mi ruba i voti. Poi in Toscana le carte bollate riguardano il candidato radicale che dice noi non avevamo le firme per Grosseto, Livorno, Lucca e Prato ma dobbiamo essere ammessi comunque, ha fatto ricorso al TAR. In Calabria c'è il caso di Pino Siclari, presidente del Partito Comunista dei Lavoratori, escluso per non aver presentato le liste ma lui dice le ho presentate. Poi ci sono due partiti con lo stesso nome, Noi Sud, lo stesso identico nome, dunque ci sarà ricorsi. Insomma, manco le elezioni, qualcuno potrebbe dire, sappiamo organizzare. Mentre intanto, visto che ieri si diceva attenzione, vi ricordate la giudice che ha deciso, Anna Argento, quella accusata perché è stata ritratta al TG3 vicino alla foto di Che Guevara e le ha detto non è mia, è del mio collega di stanza, che già comunque portarsi la foto di Che Guevara insomma in studio, ma poi tienitela a casa, insomma chi se ne frega della foto di Che Guevara in uno studio, in un ufficio pubblico. Ma al di là di questo, Ecco la nuova accusa, Franco Bechis su Libero, o meglio accusa. Sapete chi è il giudice che ha estromesso le liste del PDL a Roma? Ebbene, è quella, è colei che l'11 febbraio del 2000, 10 anni fa, mandò assolto una persona pizzicata con 8.230 dosi di hashish perché erano per esclusivo uso personale. Questo disse la persona fermata, a scopo terapeutico per lenire i dolori per cure dentali mal riuscite. E il giudice, la stessa Anna Argento, lo mandò assolto perché non è escluso, effettivamente non è improbabile che fossero dosi approvvigionate in tutta quella quantità per assicurarsi la possibilità di continuare a trarre sollievo ai dolori. Allora, io me la ricordo questa sentenza, ci fu polemica, se volete sapere è la stessa giudice che ha deciso sulle liste del PDL per Libero. Questo insomma è materia di riflessione. Allora, abbandoniamo questa vicenda, c'è molto ancora sulla questione degli appalti del G8, soprattutto il nuovo fronte che dà anche adito al giornale di fare il titolo di prima pagina è questo, 350 escort in appalto. Sembra quasi meno importante la notizia che secondo un PM interrogato di Roma, la titolare delle indagini, il capo stesso della procura Ferrara facesse di tutto per rallentare le indagini che coinvolgevano anche il procuratore Toro ed dunque un collega di procura. La notizia che sembra diventa più importante sui giornali è questa: un giro di squillo per la cricca, appalti in cambio di 350 escort. Pare che fosse questo il numero delle escort girate in quella che è definita la cricca, cioè Balducci, De Santis e Mauro della Giovan Paola, con ovviamente anche qui stralci di intercettazioni spiattellate sui giornali, russe, ucraine, venezuelane, cubane, tutte inserite nella Roma Bene, che avevano giri giusti, dovunque andassero pare che insomma usufruissero delle prestazioni sessuali di queste escort, con anche poi battute esplicite sulle prestazioni e poi in un caso con dopo una prestazione sessuale, minchia, siamo stati fortunati, 5 minuti dopo che sei uscito è rientrato il marito di chi? Della zoccola che sei andato a trovare, perché era una escort casalinga che faceva il lavoro all'insaputa del marito. Oppure sempre questo è il tenore delle conversazioni: mi servono 2 zoccole per Venezia perché stiamo lì questa notte, c'ho una russa, occhi azzurri, capelli biondi, avrà poco più di 20 anni, poi non parlano, non fanno casino, non sbroccano. Poi c'è un'altra che non sarà Claudia Schiffer, ma te la raccomando. Insomma, questo il tenore delle conversazioni anche sul giornale. Spuntano 350 escort nell'inchiesta sugli appalti. Il tenore dei linguaggi usati ve li raccomando. Sull'arbitrato, parti pronte a partire, questo è il titolo dell'intervista che il ministro del welfare Sacconi ha rilasciato a Fabrizio Forché al Sole 24 Ore, la troviamo a pagina 3. Tra l'altro questo è il tema oggi di Oscar Giannino, si parla insomma del collegato lavoro, delle polemiche sull'articolo 18 che la CGIL, l'opposizione, qualcuno dice si rischia di mandare in soffitta per questa vicenda dell'arbitrato. Si parte però in questa intervista dalla vicenda della proposta di legge di cui parlavamo ieri per allungare la cassa integrazione, sulla quale Sacconi aveva detto era scettico, e inizia proprio da qui. Vede che anche la ragioneria dice che non c'è copertura, dice Sacconi, non c'è copertura, si toglierebbero dunque risorse alla CIG in deroga che ci consente di garantire tutti i lavoratori interessati dalla crisi, non solo quelle delle grandi imprese. Chiede Forché, ma in commissione lavoro quella norma è stata votata un po' da tutti. La commissione, risponde Sacconi, ha probabilmente sottovalutato gli oneri e la composizione del bilancio. Peraltro ricorda ai colleghi di maggioranza che sugli ammortizzatori non da oggi si è verificato un dualismo tra la piattaforma riformista, dove il governo si incontra con CISL, UIL, UGL, tutte le parti datoriali, dall'altra parte la CGIL, il PD e la direzione romana delle risorse umane della Fiat, che hanno sempre chiesto di irrigidire le risorse sulla cassa integrazione ordinaria. Dunque questo il primo tema, rimane dunque la frenata, lo scetticismo sull'allungamento della cassa integrazione. L'altro, quello dell'articolo 18, dice Sacconi, per alzare la produttività, incoraggiare la fluidificazione l'attivazione dei rapporti di lavoro occorrono due condizioni: una struttura della retribuzione che rifletta la partecipazione del lavoro al successo dell'impresa e poi la riduzione del contenzioso. Ecco dunque qui l'arbitrato. A chi accusa di strumentalizzare la memoria di Biagi dice sciocchezze. Comunque l'arbitrato ha senso solo se è alternativo al giudice, altrimenti sarebbe solo un livello di giustizia in più. Quello che invita Sacconi dice: possiamo con le parti individuare l'ambito in cui sperimentare la cosiddetta clausola compromissoria all'atto dell'assunzione, cioè quella clausola per cui lavoratore e datore decidono di risolvere il contenzioso attraverso l'arbitrato anziché attraverso il giudice. Dunque lancia questa sfida, dice: con le parti mettiamoci lì e individuiamo dove si può iniziare a sperimentare questa cosa. Ma ripeto, ne parla alle 9 Oscar Giannino. Trovate molto ancora sulla vicenda delle polemiche sugli abusi sessuali all'interno della Chiesa. Vi segnalo due belli interventi, non c'è tempo per leggerli, di Alberto Melloni e Vittorio Messori sul Corriere della Sera, pagina 19. Ieri si diceva, ricordate che ieri leggevo Filippo Di Giacomo che sull'Unità ha detto: attenzione, basta questo attacco a dire che è colpa questi abusi che ci sono, insomma, che sono stati accertati nella Chiesa, colpa del celibato dei preti. Eppure chi oggi lancia questa possibilità, o comunque a dire ripensiamo il celibato, è niente meno che un cardinale, il cardinal Schönborn, cardinale austriaco, allievo di Ratzinger, che per la stampa spezza un tabù. Per Repubblica addirittura il titolo è: gli abusi dei preti, colpa del celibato. Forse questa, anzi certamente questa è una forzatura, non ha detto così Schönborn, però ha detto sostanzialmente che probabilmente la visione del celibato, il celibato, ha bisogno forse di un cambiamento di visione. Come c'è chi ha lanciato un'altra idea, viene ripresa dal Riformista, è Lucetta Scaraffia, che ha scritto tra l'altro sull'Osservatore Romano, quindi il quotidiano proprio della Santa Sede. Sostanzialmente Lucetta Scaraffia nel suo intervento dice: più donne forse avrebbero aiutato nelle dolorose e vergognose situazioni in cui vengono alla luce molestie, abusi sessuali da parte dei ecclesiastici sui giovani e loro affidati. Possiamo ipotizzare che una maggiore presenza femminile non subordinata nella Chiesa avrebbe potuto squarciare il velo di omertà maschile che spesso in passato ha coperto con il silenzio la denuncia dei misfatti.